la la la la la la la. Da da da da da da da da da. How does it feel when you've got no groove? Thank you.